alta voce. Sandro Lombardi legge Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine. 22esima puntata. Laura era accanto a un tavolo con i due Santa Silvia e Romano. Aveva in mano un bicchiere pieno di un liquido lattiginoso e glielo mostrava di lontano per offrirglielo. Luca si avvicinò, prese il bicchiere inchinandosi. Con un gesto automatico lo accostò alla bocca e tracannò d'un fiato il liquido dolciastro e fresco. Si accorse che aveva molta sete. Accettò di bere un secondo bicchiere e mangiucchiò delle mandorle salate che Linda gli offriva con ostentata cortesia. Beve, ma non osò mettere la sua grande mano tra le sicure e agili mani degli uomini e delle donne che prendevano dai piatti deposti sul tavolo di pietra piccoli bocconi di pane cosparsi di creme verdognole, gialle, di olive, acciughe, di prosciutto roseo. Rimaneva col suo bicchiere vuoto in mano e con la sinistra tentava di pescare una sigaretta nella tasca della giacca. Doveva averne due o tre, ma erano seppellite sotto il manipolo di carte che vi aveva cacciato all'ultimo momento e che aveva intenzione di mostrare a Laura. Sperava di indurla a pagare ancora un acconto per i contadini di Morutri. Qui gli si accostò il duca con un altro bicchiere pieno in mano. «Siete exquis, è squisito, veramente, giovanotto». Luca accettò il bicchiere e il duca gli disse che la colazione sarebbe stata il risultato delle premure napoletane della baronessa di Santa Silvia e di quelle calenesi di Laura Cannavale. Una buona congiura per ripagarci della fatica della gita. Quando Linda venne ad avvertire che la colazione era pronta, Luca si sentiva lo stomaco bruciante. Si accorse che nella grande cucina della masseria, dove la tavola era apparecchiata, faceva un caldo torrido. Gli uomini, prima di sedersi, si tolsero la giacca e rimasero con le loro leggere camiciole di seta. Anche Laura si era tolta la giacchetta. Sotto la stoffa leggera della camicetta si disegnava arditamente il suo piccolo seno. Luca era accanto alla baronessa Santa Silvia e dall'altro lato c'era Romano. Il giovane si buttò avidamente sul cibo, con la speranza che valesse a spegnergli il bruciore dello stomaco. Mangiava senza parlare e sentiva il sudore che gli scorreva a rivoli dentro il colletto. Anna Santa Silvia si volse a un tratto verso di lui e gli disse con tono materno: «Ma lei muore dal caldo, dovrebbe togliersi la giacca». «Gliel'ho detto anch'io», fece Romano, «ma dice di non aver caldo». La testa di Luca ronzava. Pensò per un attimo che forse nessuna forza al mondo avrebbe potuto difenderlo da quella congiura. Abbassò gli occhi sul piatto e gli parve di sentir ridere. Arrivarono alle sue orecchie parole in inglese, in francese, in napoletano, e forse tutte si riferivano alla sua giacca, al suo mozzicone di cravatta, alla camicia a due colori. Beve automaticamente ancora un bicchiere di vino e dopo qualche istante si accorse che aveva tentato di asciugarsi il sudore con la salvietta. Non osò più alzare gli occhi dal suo piatto. Ogni tanto vedeva due mani bianche, quelle di Linda, che gli sostituivano le posate. Poi, non sapeva perché, forse si era mosso inavvertitamente, sentì sul suo il fianco della baronessa di Santa Silvia. Non osò muoversi, temendo che la sua vicina si accorgesse del contatto. Si voltò cautamente a guardarla e vide gli occhi velati della donna appuntarsi con insistenza nei suoi. Gli parve che volesse esprimere con quello sguardo materno comprensione per il suo contegno e il suo cuore si riempì di gratitudine. Tutta la comitiva si era ritirata nel piano superiore della masseria. Luca era uscito all'aperto. Si era allontanato di qualche centinaio di passi dal fabbricato ed era andato a sedersi all'ombra di una spalliera di sambuco che era piantata contro il muro di un fienile. Si era finalmente slacciato il colletto e aveva potuto asciugarsi il sudore. Aveva trovato, dopo averle cercate affannosamente, le sigarette. Si meravigliò, anzi, di trovarne accanto alle sue altre di marca più pregiata, che doveva essersi storditamente cacciato in tasca quando gli erano state offerte. Come al solito, tentava di richiamare alla mente i gesti compiuti, le parole pronunziate, per cercare di stabilire, ora che era del tutto inutile, il contegno che avrebbe dovuto avere. Ma la sua mente divagava verso pensieri incoerenti. A un tratto udì un passo alle spalle. Luca seppe, prima di voltarsi, che stava arrivando la baronessa di Santa Silvia. Tentò con un gesto impacciato di riallacciarsi il colletto e riabbottonarsi la giacca, ma non ne ebbe il tempo. La donna gli si era seduta accanto e gli aveva preso una mano tra le sue. Luca fece l'atto di alzarsi, ma Anna si appese al suo braccio, gravandogli addosso, e gli disse con un soffio di voce: «Vuole andarsene?» «No, veramente?» La donna non rispose e gli appoggiò graziosamente la testa sulla spalla. «Gli altri sono andati a dormire, ma io non ho sonno.» Poi soggiunse: «Lo vede che aveva caldo anche lei?» E Luca sentì la mano morbida della donna insinuarglisi sotto la camicia semiaperta. Le dita percorrevano lentamente i muscoli del petto. Luca socchiuse gli occhi e sentì il grande silenzio della campagna, lo stormire leggero del vento e un lontano, assonnato chioccolare di galline. Il corpo della donna aderiva sempre più tenacemente al suo. Il sangue gli si faceva veloce nelle vene. Si volse con uno scatto improvviso, abbrancò la donna per le spalle e la strinse. Sentì sul suo petto duro i seni teneri della donna e la bocca grande, morbida, untuosa, che gli respirava affannata sulle labbra. Anna si svincolò, balzò in piedi e disse in un soffio: «Ci vedono», e girò l'angolo a sinistra. Fece un cenno a Luca perché la seguisse. Si insinuarono tra il muro del fabbricato e quello di cinta, una specie di corridoio sul quale si apriva la porta della pagliaia. La donna spinse ed entrò. Luca la seguì e si chiuse la porta alle spalle. Il sangue gli martellava le tempie. Sentì sotto i piedi stridere lo strato di paglia. Nella penombra non vedeva più la donna. Avrebbe voluto chiamarla, ma non ricordava, o forse non aveva mai saputo esattamente il suo nome di battesimo. Attese qualche attimo per abituarsi alla differenza di luce ed esplorò con attenzione davanti a sé i cumuli della paglia. In un angolo c'era un mucchio di sacchi di avena. Luca suppose che la donna si fosse nascosta per gioco dietro i sacchi, ma all'improvviso se la sentì alle spalle. Si voltò di scatto e la chiuse nelle sue braccia. La donna ora aveva paura. Uno sgomento di bambina le sbiancava il viso, le riempiva gli occhi di luce fosca e le faceva le labbra tremanti. Mormorava a voce bassissima parole in inglese rotte dall'affanno. Il giovane non parlava. La sospingeva lentamente verso il fondo della pagliaia, carezzandola con le sue grandi mani tenaci. La sentiva divenire sempre più debole e languida. Quando caddero avvinghiati sulla paglia, Luca la sentì mugolare placidamente a bocca chiusa, ma sorrideva e ridevano gli occhi velati, le guance, e tutto il viso era illuminato da una gioia tripudiante. L'assopimento di Luca si era trasformato in un sonno profondo. Quando si svegliò, gli parve che la luce dell'interno si fosse fatta più debole. Anna Santa Silvia era sparita. Luca non avrebbe saputo dire quanto tempo erano rimasti insieme, che cosa la donna gli avesse detto, le parole che egli aveva risposto. Era stato un discorso incoerente, fanciullesco, punteggiato da gridetti, morsi, fughe, risa, da profondissimi abbandoni nei quali Luca aveva visto sempre sul viso della donna diffuso quell'alone giocondo. A un tratto Anna gli aveva messo teneramente la mano sugli occhi per invitarlo a dormire. Luca si era voltato sul fianco, si era assopito prima dolcemente e poi si era profondamente addormentato. Svegliandosi, pensò che gli ospiti della masseria del Frassino fossero tutti partiti e lo avessero cercato invano. Afferrò a furia la giacca, il colletto e si rivestì rapidamente. Quando fu all'aperto, si accorse che il sole era ancora alto, il caldo ancora forte, la campagna ancora piena di sonno. Sullo spiazzo davanti alla masseria non c'era nessuno. Dopo qualche istante dalla cucina uscì una contadina con un secchio pieno di acqua. Gli disse passando: «Vado ad abbeverare il tuo cavallo». Luca si sedette all'ombra su d'una scranna e fece piovere le braccia tra le ginocchia divaricate. Rimase a lungo in quella posizione. Più tardi apparve Linda con un carico di tovaglioli. Si avvicinò alla tavola di pietra, stese la tovaglia, rientrò in cucina e tornò con tazze e bicchieri. Si muoveva con la solita grazia affettata e contegnosa. Passando accanto a Luca, sorrideva, col suo sorriso stretto e pungente. A un tratto gli si avvicinò e disse: «Permette? Lei ha la giacca piena di paglia». E con gesti rapidi raccolse i fili della paglia che si erano incollati sul dorso di Luca. Poi, mentre gli batteva leggermente sulle spalle per spolverarlo, aggiunse: «Ma lei questa giacca non se la toglie neanche in certe occasioni?» «Quali?» «Quando va a dormire in un fienile, per esempio». «Già», fece Luca, «io ho dormito in un fienile, ma lei come lo sa?» La ragazza rispose ridendo: «Come? Lo si vede dalla paglia». Luca non ebbe voglia di rispondere. Forse Linda l'aveva visto entrare nel fienile con Anna Santasilia. Forse l'avevano visto anche gli altri. Certamente Laura lo avrebbe saputo perché glielo avrebbe raccontato la sua cameriera. Pensò di andarsene. Doveva montare a cavallo e sparire. Con Laura avrebbe parlato il giorno seguente a Calena. O avrebbe addirittura incaricato Don Primiano la Zazzera di chiedere il denaro per i contadini. Ma la sua decisione era stata troppo lenta. Gli ospiti scendevano ad uno sullo spiazzo. Arrivò prima il barone che, vedendolo, gli fece da lontano un cortese cenno di saluto. Poi arrivarono insieme Romano, Laura, il duca di Pietracatella e Anna di Santasilia. Laura gli si avvicinò e gli disse: «Venga domani da me a Calena, nel pomeriggio. Se ha quegli appunti, li porti. Ma per ora credo che non serviranno a niente». Il tono di Laura era, come al solito, affabile. Luca si sentì un po' sollevato dal suo imbarazzo. La baronessa di Santasilia lo guardò più volte con uno sguardo opaco, come se lo vedesse per la prima volta. Luca partì per Napoli alla metà di ottobre. C'erano state, dopo l'equinozio di autunno, lente e tiepide piogge su Calena e i contadini avevano rinfrescati i maggesi per prepararli per la semina. Luca aveva saputo, prima di partire, che nelle cantine di Casa Cannavale c'era un deposito di concimi e che stava arrivando il grano per il seme. Don Primiano la Zazzera, che aveva la chiave del deposito, gli disse che avrebbero fatto la distribuzione sulla stessa tenuta. «Per la metà di novembre», gli aveva detto Don Primiano, «saremo pronti e voi sarete tornato per quei giorni, vero Don Luca? Del resto possiamo fare anche tutto noi. Ormai anche io conosco i contadini di Morutri». «Tutto andrà bene, Don Luca», aveva aggiunto con il suo solito tono affettuoso. «E voi potete partire tranquillo». A Napoli, Luca andò ad abitare nella stessa camera dove era stato l'autunno precedente. La padrona di casa gli disse che c'era anche lo studente di medicina che l'aveva accompagnato la prima volta. Giulio D'Angelo rientrò la sera, tardi, e andò in camera di Luca per salutarlo. Gli disse che era stato costretto a tornare perché l'anno prima non era riuscito a laurearsi. Era stato bocciato in uno dei due esami che gli rimanevano ed era stato costretto a cambiare il tema della tesi per non correre il rischio di vedersela rifiutare. Incominciano a diventare cani i professori. Vogliono moralizzare questo bordello tutto in una volta. E tu? Com'è che sei venuto tanto presto quest'anno? Volevo finalmente, disse Luca, procurarmi qualche libro, fare qualche visita alla biblioteca, orientarmi. Non mi è possibile frequentare, ma almeno vorrei sapere esattamente che cosa debbo studiare, oltre questi pacchettini di dispense che mi passano gli amici. D'Angelo si era seduto sul lettuccio di Luca e aveva acceso una sigaretta. «Disturbo? Se rimango un po'?» «Anzi», disse Luca, «mi fai piacere. Purtroppo non ho niente da offrirti». Giulio fece un gesto con la mano sinistra per ringraziare l'amico della sua cortesia. Luca notò che portava un cerchietto all'anulare. «Porti l'anello», gli disse. «Ti sei sposato?» «Già, mi sono sposato. È quasi un anno ormai, subito dopo la bocciatura. Avevo ancora un anno di studi, mio padre era senza un soldo ed era carico di debiti. Ho sposato una ragazza di 40 anni che aveva 50.000 lire di dote. Mio padre ha pagato i debiti, io posso prendere la laurea. Va bene, no?» «Non va bene», disse Luca con tristezza. «Lo so», fece Giulio, «ma non avevo da scegliere. Ho tentato di trovare io altro denaro, ma al mio paese ci sono già altri 4 medici che non fanno una lira. Chi volevi che mi prestasse denaro? Appena laureato cercherò di emigrare». «Anche io, se potessi, partirei», disse Luca. «Già, ma tu, con la laurea in legge, quando l'avrai, ti ci accendi la pipa all'estero. E che si può fare? Che possiamo fare per noi, per tanta gente come noi?» fece Luca con una specie di orgasmo. «La rivoluzione», disse Giulio sarcasticamente. «Chi la farà?» chiese Luca. «I fascisti. Tu non sai», aggiunse, «che Mussolini è stato a Napoli. Ha promesso che avrebbe condotto le sue squadre alla conquista di Roma. Al Teatro San Carlo c'era tutta Napoli. Duchi, principi, baroni e uomini insigni. E tutti erano perfettamente d'accordo sulla rivoluzione». Tacque per qualche minuto e poi chiese: «E dalle tue parti cosa succede?» «Niente, o quasi. La primavera scorsa i fascisti bastonarono a sangue un signore che si era messo a capo di una società operaia per diventare deputato e un professore suo amico. E tutto è finito lì. Ogni tanto si riuniscono, gridano, cantano e poi vanno a bere». Luca gli raccontò quello che aveva fatto durante l'estate a Morutri. Disse delle terre del sacramento, delle quotizzazioni, della promessa del contratto per l'enfiteusi. «Se ho ben capito», commentò Giulio D'Angelo, «l'avvocato Cannavale ha ceduto i suoi diritti sulle terre o perlomeno ne ha fatto procura a sua moglie». «Credo che le cose stiano così». «Attento, ragazzo», disse con accento grave. «Attento perché?» fece Luca perplesso. «Non so dirti esattamente, ma quel Santa Silia di cui tu parli è un banchiere che ha in mano il credito meridionale. È notissimo nell'ambiente. In questi ultimi tempi ho letto sui giornali che in una certa questione di navi è riuscito a mettere nel sacco tutti i suoi concorrenti. Cercala, questa signora. Può darsi che sia a Napoli. Se non la trovi, va a parlare con il duca di Pietracatella e procurati il suo indirizzo. Non c'è tempo da perdere». «Ma perché?» disse Luca. «Ha promesso. Sono già state assegnate provvisoriamente le quote. I contadini da 6 mesi zappano le terre. Che può fare? Ha bisogno dei contadini. Senza di loro la terra non vale nulla». «Questa è la sola cosa ragionevole che hai detto fino adesso. Ma senti il mio consiglio. cerca di arrivare a una conclusione. Luca stava diventando inquieto. Sotto l'impressione delle parole di Giulio, collegava mentalmente tante minute circostanze che gli erano parse prima inspiegabili. La gita di Santa Silia, il ritorno di Tallei, l'assenza prolungata di Laura, le reticenze del notaio Iannaccone. Via via che questi dubbi gli si venivano affacciando alla mente, li comunicava all'amico. Finì col raccontargli anche l'incontro con la baronessa Santa Silia. «Bah, da lei è inutile che tu vada. Laggiù tu eri un elemento del paesaggio. Qui non le servi a niente. Non ti riceverebbe. Ti farebbe buttare sulla strada dal portiere». «Lo so», fece Luca con voce sorda. «È una vecchia puttana». «Ma tu non hai un'idea approssimativa dove possa trovarsi la signora Cannavale?» gli chiese Giulio. «Parte, torna, riparte. Chissà mai dove va». Poi dopo un istante aggiunse: «Una volta imbucai un pacco di carte e una lettera per lei indirizzati all'albergo Excelsior». «Prova all'albergo Excelsior. Lo sai dov'è?» «Veramente non sono molto pratico». «E tu domanda. Va verso Santa Lucia. Quando sei sul lungomare, chiedine al primo passante. Può darsi che il portiere dell'albergo ti possa dare qualche indicazione. Oppure va dal duca di Pietracatella. Mi pare ci debba essere un palazzo Pietracatella nei pressi di Toledo. Posso sbagliarmi, ma i cocchieri sapranno portartici». La mattina seguente Luca andò verso il mare per chiedere di Laura al portiere dell'albergo Excelsior. Era una giornata limpida, dominata dal vento di tramontana. Il vento era alto, non arrivava al livello delle acque e il mare aveva appena una increspatura minuta. Luca camminava col suo passo lento e lungo di contadino tra la gente che si accalcava nei vicoli, dove il vento giungeva con impeto smorzato. Camminava aggrondato, tutto chiuso nei suoi pensieri. Ritornava incessantemente ai ricordi dell'ultimo mese, alle circostanze che l'avevano mescolato alla faccenda delle terre. Ricordava il suo primo incontro con Laura nella casa dei Cannavale e si accorgeva che gli era rimasta dentro, nonostante la conoscenza più completa, quella sua immagine schietta e fiera. «Non può non mantenere la promessa», si diceva. Ma poi, collegando e raffrontando altri pensieri e altre circostanze, il dubbio gli tornava insistente. L'amico gli aveva detto: «Io non sono esperto di queste cose, ma non credo che si possa concedere in enfiteusi una terra coperta da ipoteche. O perlomeno credo che non sia un affare sottoscrivere un contratto del genere. Dovresti informarti, chiederlo a un avvocato». Doveva chiedere tante cose, Luca. Tutto si presentava intricato come un groviglio di serpenti. Si arrestò davanti all'albergo Excelsior, girò la porta a bussola e gli venne incontro l'aria tiepida e odorosa dell'interno. Accanto alla porta c'era un uomo gallonato e Luca gli chiese, togliendosi il cappello: «Volevo sapere se c'è qui la signora Cannavale». L'uomo gli fece un cenno, indicandogli un punto lontano dell'atrio, e disse: «Bureau». Luca attraversò l'atrio sui tappeti spessi, lento e cauto, come danzando. L'impiegato alzò appena il capo dai suoi registri, lo sbirciò rapidamente continuando a scrivere, poi fece un cenno con la sinistra verso il fondo, come annaspando, e disse: «Guido». Guido si avvicinò alla sponda della scrivania e disse a mezza voce: «Il signore?» «Volevo sapere se c'è qui la signora Laura Cannavale». Il ragazzo sfogliò rapidamente il registro, che era collocato nel fondo illuminato da una lampada bassa. Tornò indietro e disse: «Non c'è», e ritornò al suo posto. Luca rimase col cappello in mano e lo veniva rigirando tra le dita. Eppure mi avevano detto... L'uomo che scriveva rispose senza alzare la testa. Era qui 3 settimane fa con la cameriera e il suo bambino. C'è della posta per lei. Luca disse a precipizio. Lei sa il suo indirizzo allora. L'uomo depose la penna, lo guardò in faccia e gli disse con freddo malgarbo. La sua posta è qui proprio perché noi ignoriamo il suo indirizzo. Mi pare logico. Luca riattraversò la sala a passo lento. Fuori ritrovò il morso della tramontana. Poteva darsi che Laura fosse a Calena. L'idea gli era venuta improvvisa e gli sembrava, in fondo, la più naturale. Decise di scrivere allo zio Filoteo. Quando ebbe scritto, si calmò. Fece colazione in camera, con le provviste portate da casa. Aveva deciso di andare solo di sera dalla Calabrese per farsi durare il denaro più a lungo che fosse possibile. Uscì sul tardi. Il tempo era cambiato. Veniva giù una pioggerella minuta e l'aria s'era fatta tiepida. Se piove anche a Morutri, va bene per i maggesi, pensò. Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.